Sta piovendo uomini, c'è uno che scende proprio qua. Oh! Buono, buono, che piovono uomini. Senti, io ti volevo qui perché mi hanno spedito una strana favola di Cappuccetto Rosso versione italiano-inglese. Te la lascio, se dopo la vuoi raccontare ai nostri ascoltatori sono sicura che col tuo accento verrà carinissima ancora di più. Quindi te la lascio, tra pochissimo Fregal proverà anche questa cosa incredibile. Da Carolina intanto è tutto, ci risentiamo domattina tra le 6 e le 8, un bacio a Peppo che è stato in regia. E tu... Non c'è niente da fare, bisogna arrendersi alla bella musica di Radio Kiss Kiss Network, that swing out sister, all the way from 1987. Hello everybody, good morning, my name is Fergal Kavanagh. On control c'è il nostro DJ Beppos e saremo insieme fino alle ore 13 playing the best music questa mattina, questo mercoledì mattina, un mercoledì di sole, e quindi non lo so che progetti avete questa mattina, la potete farmi sapere al 348-661-9461, un bel sms, oppure potete telefonare a Beppos alle 081-631-631, sarei Ida a rispondervi. Inner smile, il sorriso dentro a te, e questa mattina com'è possibile non avere un bel sorriso, perché c'è un sole bellissimo su tutta Italia questa mattina. E voi che progetti avete? Siete andando al mare o siete chiusi in ufficio a lavorare? Spero proprio di no per voi. E se andate al mare, ragazzi, fate attenzione, fate divertitivi. Insieme ai Travis vi potete anche mettere in viaggio, perché Radio Kiss Kiss Network vi porta nel futuro. C'è Rina Testa Rossa e Raul girano l'Italia con un magnifico tir allestito alla grande per farvi conoscere Final Fantasy, il film più atteso dell'estate, realizzato interamente col computer grafica, solo con attori virtuali. Chiamateci subito alle 081-546-1212 per prenotare il vostro gadget, e poi seguiteci, potrete ballare, giocare e vincere. La sesta tappa è domani, giovedì 19 luglio a Napoli, la settima tappa poi venerdì 20 luglio a Sant'Agata dei Gotti, l'area ex campo sportivo. Poi rimanete sintonizzati per sapere tutte le altre date, il futuro vi aspetta con un universo di gadget. Radio Kiss Kiss Network. Allora ragazzi, sì che fa caldo, fa troppo caldo portare le solito scarpe, e perciò magari è il caso di mettere i sandali, un po' di freschezza ai piedi in questo periodo caldo. Però fate molto attenzione prima di andare a qualche festa, come non ha fatto Donatella Versace l'altro giorno a New York. Lei voleva andare ad un grande festa dai VIP, però si è presentato con i sandali e butto fuori praticamente, gli ha detto signora, lei non può entrare qua vestito così. Lei giustamente si è arrabbiato e ha chiamato il manager, che subito le ha fatto entrare. Però attenzione, tu con la ragazza tua, e questo le dedica a Sandra, che è la sorella di Kia, e praticamente oggi Sandra festeggia il suo compleanno, e quindi tanti tanti auguri. E pure Kia voleva dire che ti vuole molto bene. Poi anche grazie al messaggio Diodata, che ha detto oggi state dando grande musica, un abbraccio a voi, un bacio alla mia bella, da chi vi segue sempre Diodato, thank you very much. E poi un messaggio per Carolina che è arrivato adesso, non lo so Carolina se stai ancora sentendo in macchina tornando a casa, però praticamente Trilli ti ha invitato stasera a casa sua a prendere una fetta di torta, buonissimo, e per me niente. Oh, il nostro sms 348-661-9461. Un grande successo per Manu Chao with Me Gustas Tu. E ragazzi, ragazzi, a me gusta, se c'è un po' di problemi alla pancia, un po' di sollievo, però non ne parlerò. Parlerò invece di queste cose che è successo in Inghilterra, a Scotland Yard praticamente. È arrivata una telefonata da una signora che ha detto è arrivato un poliziotto ad indagare un crimine e dentro casa mia ha lasciato un po' di vento, non lo so come dirlo in italiano senza essere un po' volgare, si può dire scorreggere in onda? Ah, si può dire, ok. E quindi praticamente adesso c'è questa indagazione indagine contro questo poliziotto. Oppure un altro è stato multato di $100 perché mentre stava dentro la questura praticamente ha sparato, una cosa normale, no? Potrebbe succedere a qualunque, però gli costerà 100 sterlino per questo fatto. That's incredible. Quindi attenzione a quello che mangiate prima di andare a questura. Ora. Io fare quest'ora di mattina è molto divertente perché mi faccio dei giri sull'internet a trovare un paio di storie divertenti, eccetera. Per esempio, qua di fronte a me ho trovato questa storia dei ragazzi che tornano dal loro luna di miele e trovano che la porta è tutto blindato, fatto a mattone. Un brutto scherzo che hanno fatto gli amici tornando dal matrimonio. Ma questo è brutto veramente. Chi sei? Io ti avrò, it's Daniela Pedalli, spero per te che non sbagli, Daniela, io ti prenderei comunque, ti prenderei, vai, adesso sono le 11, a 60 anni è ancora attuale come sempre, questo è Hurricane e viene dal suo album Desire, it's Bob Dylan, e dico che è attuale, attuale come sempre, perché esce il settembre, esce l'11 settembre il suo nuovo album, il suo 43esimo album, che si intitolerà Love and Theft, e lì ci saranno 12 nuovi brani in stile blues e speriamo che sarà bello quanto l'ultimo Time Out of Mind. This is Fergal Kavanagh, this is music. He's loaded o carico, e ci credo che è molto carico perché la settimana scorsa è salito sul palco con Sting a fare un bel versione di Every Breath You Take a Milano, e quello caricherebbe a qualunque cantare quel mitico canzone con un idolo come Sting. Allora saluto Stella che mi ha scritto, ha detto ho appena acceso la radio, ma dov'è Pippo Bello? Pippo aspetta, non è qua sotto la mia scrivania, no, non lo so esattamente dov'è, però non vi preoccupate, tornerà domattina alle ore 10, per il momento dovete sopportare a me, io sono Fergal Kavanagh, e ringrazio a Fabio da provincia di Lodi che ha scritto, ha detto grande Fergal, finalmente riesco ad ascoltare la tua musica di mattina. Ah, that was the sound of last summer, cioè il suono dell'estate scorso. Chi sarà the sound of this summer? Dobbiamo aspettare. Comunque, it's Ian Pooley with Carousel Tambour. Allora, saluto Dido che mi ha scritto. Volevo sapere se andassi a vedere gli U2 a Torino. Lui non ci va e purtroppo nemmeno io ci vado. Sto soffrendo per questo fatto, Dido. Comunque, mi consolo con la musica di Noelia. I don't think you're ready for this. Non credo che sia ancora pronto tu per questo, dicono i Destiny's Child. Però è praticamente, io credo che Giacomo di Villa Piana è pronto per tutto, pronto di tutto, perché oggi compie 18 anni. Auguri! Questo viene da Gianfranco ed Angie. Grazie ragazzi. 348-661-9461 è il nostro numero. E poi è arrivato questo bel messaggio qua da Eleonora. Lei ha detto, senti, mi piacerebbe sapere dove vai in vacanza, ma spero che ci vai da solo, così potrai raggiungerti. Ciao, un bacio di Eleonora. Ma grazie Eleonora, io vado in Francia, vado in un matrimonio, e quindi non lo so se posso anche invitare a te, però mi farebbe piacere. Anche la mia libertà. Per qualunque persona che si chiama Anna Giulia, questa è una canzone che Daniele Groff ha dedicato a voi. Allora, ho letto qua che praticamente in America c'è una 73enne, una signora che ha recuperato sui Yorkshire dalle dente di un pitbull, che ha fatto a morso sul collo al pitbull. È pazza. È Mambo from Mr. Ambro. Mi farebbe piacere intervistare questo artista, però mi sa che non mi sarà mai, ma mai possibile, perché non esiste, non esiste. E come non esiste, dite voi? State passando il disco on Radio Kiss Kiss Network in questo momento. Allora, ragazzi, praticamente i Virgin Records hanno deciso basta con questi artisti permalose, eccetera. Noi creiamo il primo artista virtuale. Praticamente la sua voce, la voce di Mr. Ambo, è creato totalmente elaborato da un computer. Ma stiamo veramente vivendo nell'età della tecnologia. È incredibile questo fatto. E io non esisto nemmeno. Vabbè, esisto. Alexia with Money Honey, e lei dice che non crede nell'amore. Ma Alexia, che ti è successo? Perché hai il cuore così di pietro? L'amore è una cosa molto bella, soprattutto sotto questo sole, sulle spiagge, al mare, oppure la sera quando vai in giro, un po' di aria fresca. L'amore lì veramente nasce. Questo è l'estate, ragazzi, e vogliamo tanto amore. Voi restate con noi, stay with me. Anzi, ragazzi, potete restare con voi, però vi potete anche mettere in viaggio, perché Radio Kiss Kiss Network vi porta nel futuro. Cerina Testa Rossa e Raul girano l'Italia con un magnifico tir allestito alla grande per farvi conoscere Final Fantasy, il film più atteso dell'estate, realizzato interamente col computer grafica, solo con attori virtuali. Chiamateci subito alla 081 546 1212 per prenotare i vostri gadget, e poi seguiteci, potrete ballare, giocare e vincere. La sesta tappa è domani, giovedì 19 luglio a Napoli, e poi la settima tappa venerdì 20 luglio a Sant'Agata dai Gotti, area ex campo sportivo. Ottava tappa lunedì prossimo 23 luglio a Salerno, e la nona tappa mercoledì 25 luglio a Capo Palinuro presso Porto. Rimanete sintonizzate per sapere tutte le altre date. Il futuro vi aspetta con un universo di gadget on Radio Kiss Kiss Network. And now here's Neffa. Bene insieme, e chissà se io mi troverei bene insieme a Connie, che mi ha scritto, ha detto: wow, che fantastica voce, grazie. Ti accompagno io in Francia, l'adoro. Dimmi dove e quando. Ciao stupendo, mille baci per te. Ok Connie, io parto giovedì prossima, e magari faccio una telefonata all'amico a vedere se può ospitare anche a te. Adesso sono mezzogiorno. The Rod Stewart and Do You Think I'm Sexy, e questo lo dedico a Vanessa che ci sta ascoltando insieme a Franco. Ciao ragazzi, thanks for listening to us this morning. Allora, Do You Think I'm Sexy, ragazzi, ho comprato questo pantaloni nuovi, dai, avvicinate un po' allo radio, guarda, guardate un po', vi piace? Very sexy, yeah, very very sexy. Ok, Fergal Cavanaugh on voce, Beppus on controls, the best of music fino alle ore 13, e non vi preoccupate, vi faccio muovere e sudare, se non già facessi abbastanza caldo. Agonia, con questo dolore che sta subendo Faith Hill, ci annuncia che ha registrato il tema del nuovo blockbuster di Pearl Harbor. E sì, sarà molto molto doloroso, lo so, perché ho letto la recensione, però almeno si fa un paio di spicci, non è così, Faith Hill? And There You'll Be is the name of the song. Allora, un paio di messaggi che ho ricevuto, e c'era uno qua che ovviamente mi conosce bene, perché ha detto: veramente? Tu ti consoli con un pezzo di Noelia, ti consoli del fatto che non puoi andare a vedere gli U2? Hai ragione, tra gli U2 e Noelia non è che c'è confronto, però dovevo annunciare Noelia, e intanto mi fa ballare un po', no? E poi, ma nella chat di Kiss Kiss non c'è nessuno, io che ero curioso di visitarla. Non è vero, ce ne sono tante persone in questo momento, per esempio Joker, Tre, Dido, Trilli, Francesca. Secondo me ti conviene fare un bel giro adesso e salutare a tutti. Piacere piacere di averli in studio con me qualche settimana fa, Paola Anchiara, Fino alla Fine, e questo è un bel canzone che viene dal loro nuovo album che si chiama 2001 Vision. Allora, questa storia che sto leggendo qua parla di un ragazzo un po' sfortunato, un po' stupido direi. Praticamente ha deciso di rapinare un fast food joint, un posto di nome Taco Bell, e gli è andato in bicicletta al drive-in e gli ha chiesto tutti i soldi che loro gli hanno dato. Però poi ha detto: ho un po' di fame, non è che mi potete dare un bel hamburger pure? Allora ci voleva il tempo di preparare questo hamburger, e nel frattempo chiaramente il staff hanno chiamato la polizia, che hanno beccato subito a questo 17enne su sua bicicletta. Ma che sfiga, che stupido, non è lucky in his life. Mancino with Due Destini on Radio Kiss Kiss Network questo mercoledì mattina, mercoledì 18 luglio, e quindi è il compleanno di Trilli. Tanti auguri a te, Trilli, e spero che ti vada molto bene questo torta a mele che stai preparando per questa sera. E mentre sto leggendo messaggio, leggo anche questo messaggio che è arrivato da Fasano, provincia di Brindisi, da Giovanna. Lei voleva sapere quando è la festa della pizza a Salerno. Allora, praticamente sarà dal 24 al 29 luglio, e quindi non lo potete mancare, perché si mangia tanta pizza buona, la margherita, già sta arrivando l'acqua in bocca. Essendo la colonna sonora di Moulin Rouge, ragazzi, vi voglio segnare una cosa molto bella di fare quest'estate se vi trovate in città d'estate, perché io domenica scorsa sono andato al cinema Sotto le Stelle, e vi posso assicurare che non c'è niente di meglio di stare lì con l'aria fresca e questo bel cinema. Provate una di queste sera magari. Magari se ci fosse qualcosa di speciale tra te e me. Sono i Hooverphonic all the way from Belgium, e questo si intitola Out of Sight, Best Friends, Migliori Amici. Ok, tanti email che mi sono arrivati a fergal@kisskissnetwork.it. C'è uno da Mario che mi ha scritto: ciao Mario, e tu stai facendo compagnia a tuo fratello che purtroppo sta a letto, allora spero che si guarisce presto e forse un giorno lo conoscerò anche. E poi Luisa ha scritto: voleva fare gli auguri a sua sorella Rossella, che ha compiuto 25 anni oggi, e che questo viene anche da parte di suo fratello e di sua mamma. Quindi tanti auguri Rossella, e credo che l'abbia già fatto per te intanto. Allora, messaggi sul 348-661-9461. Dov'è Pippo? Oggi vogliono sapere. Non vi preoccupate, Pippo tornerà domani alle ore 10. Tutto avec l'amour, con l'amore. In pratica si può anche andare al mare lasciando tuo fidanzato in ufficio a lavorare. Non mi sembra il caso, però se le devi fare, le devi fare, come ha fatto Rosalba, che volevo salutare il mio boy Vito di Bitonto, dicendole che anche se sono al mare mentre lui lavora, lo penso comunque tanto, lo prego di leggerlo. Ecco, ti l'ho letto e le sai, io sto qua pure a lavorare e vorrei stare al mare. Vabbè, dopo mi faccio un bel tuffo. Me ne vado ad Electric Avenue a trovare ad Eddie Grant. Pippo tornerà domani alle 10, grazie a Toots Long Control. Noi ci sentiamo alle 21, sono le 13 adesso. Kids Network. Welcome. Grazie Fergal, grazie di tutto, sei stato molto bravo, complimenti. No, qui.